Sezione quarta della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto quarto. Intra due cibi, distanti e moventi, d'un modo prima si morria di fame che libero uomo l'un recasse a denti. Sì, si starebbe un agno intra due brame di fieri lupi, igualmente temendo. Sì, si starebbe un cane intra due dame. Perché s'io mi tacea, me non riprendo dalle miei dubbi d'un modo sospinto, poiché era necessario, né commendo. Io mi tacea, ma il mio disir dipinto m'era nel viso, e il dimandar con ello più caldo assai che per parlar distinto. Fissi Beatrice, qual fe Daniello, Nabucodonosor levando d'ira che l'aveva fatto ingiustamente fello. E disse, io veggio ben come ti tira uno ed altro disio, sì che tua cura se stessa lega, sì che fuor non spira. Tu argomenti, se il buon voler dura, la violenza altrui, per qual ragione di meritar mi scema la misura? Ancor di dubitarti da cagione, parer tornarsi l'anime alle stelle, secondo la sentenza di Platone. Queste son le question che nel tuo velle pontano egualmente, e però pria tratterò quella che più ha di felle. De Serafin, colui che più s'india, Moisè, Samuello, e quel Giovanni, qual prender vogli, io dico, non Maria, non hanno in altro cielo i loro scanni che questi spirti che mo t'appariro, ne hanno all'esser loro più o meno anni, ma tutti fanno bello il primo giro, e differentemente han dolce vita per sentir più e men l'eterno spiro. Qui si mostraro, non perché sortita sia questa spera lor, ma per far segno della celestial cammen salita. Così parlar conviensi al vostro ingegno, perocché solo da sensato apprende ciò che fa poscia d'intelletto degno. Per questo la scrittura condiscende a vostra facultate, e piedi e mano attribuisce a Dio, ed altro intende. E Santa Chiesa, con aspetto umano, Gabriel e Michel vi rappresenta, e l'altro che Tobia rifece sano. Quel che Timeo dell'anime argomenta non è simile a ciò che qui si vede, perocché, come dice, par che senta. Dice che l'alma alla sua stella riede, credendo quella quindi esser decisa, quando natura per forma la diede. E forse sua sentenza è d'altra guisa che la voce non suona, ed esser puote con intenzion da non esser derisa. Se gli intende tornare a queste ruote l'onor dell'influenza e il biasmo, forse in alcun vero suo arco percuote. Questo principio, malinteso, torse già tutto il mondo quasi, sicché Giove, Mercurio e Marte a nominar trascorse. L'altra dubitazion che ti commuove, a men velen, però che sua malizia non ti poria menar da me altrove. Parere ingiusta la nostra giustizia negli occhi de mortali è argomento di fede e non di eretica nequizia. Ma perché puote vostro accorgimento ben penetrare a questa veritate, come disiri ti farò contento. Se violenza è, quando quel che pate, niente conferisce a quel che sforza, non fur quest'alme per essa scusate. Che volontà, se non vuol, non s'ammorza, ma fa come natura face in foco, se mille volte violenza il torza. Perché s'ella si piega assai o poco, segue la forza, e così queste fero, potendo ritornare al santo loco. Se fosse stato il lor volere intero, come tenne Lorenzo in sulla grada, e fece Muzio la sua man severo. Così l'avria ripinte per la strada, ond'eran tratte come furo sciolte, ma così salda voglia è troppo rada. E per queste parole, se ricolte l'hai come dei, è l'argomento casso, che t'avria fatto noia ancor più volte. Ma or ti s'attraversa un altro passo dinanzi agli occhi tal che per te stesso non usciresti, pria saresti lasso. Io t'ho per certo nella mente messo che l'alma beata non poria mentire, però che sempre al primo vero appresso. E poi potesti da Piccarda udire che l'affezion del vel costanza tenne, sì che la par cui meco contraddire. Molte fiate già frate advenne che per fuggir periglio contra grato si fe di quel che far non si convenne. Come Almeone, che di ciò pregato dal padre suo, la propria madre spense. Per non perder pietà si fe spietato. A questo punto voglio che tu pense che la forza al voler si mischia e fanno sì che scusar non si posson l'offense. Voglia assoluta non consente al danno, ma consentevi intanto in quanto teme, se si ritrae, cadere in più affanno. Però, quando Piccarda quello sprieme, della voglia assoluta intende, ed io dell'altra, sì che ver diciamo insieme. Cotal fu l'ondeggiar del santo rio, cuscia del fonte ond'ogni ver deriva, tal pose in pace uno ed altro disio. O amanza del primo amante, o diva, dissi io appresso, il cui parlar minonde scalda sì che più e più m'avviva. Non è l'affezion mia tanto profonda che basti a render voi grazia per grazia, ma quei che vede puote a ciò risponda. Io veggio ben che giammai non si sazia nostro intelletto, se il ver non lo illustra, di fuor dal qual nessun vero si spazia. Posasi in esso come fera in lustra, tosto che giunto là, e giunger puollo, se non ciascun disio sarebbe frustra. Nasce per quello a guisa di rampollo, a piè del vero il dubbio, ed è natura che al sommo pinge noi di collo in collo. Questo m'invita, questo m'assicura, con riverenza, donna, a dimandarvi d'un'altra verità che m'è oscura. Io vo saper se l'uom può soddisfarvi ai voti manchi, sì con altri beni, che alla vostra sadera non sien parvi. Beatrice mi guardò con gli occhi pieni di faville d'amor, con sì divini che vinta mia virtù diede le reni, e quasi mi perdei con gli occhi chini. Fine del canto quarto.